Sono le 9, buongiorno da Vittorio Giacopini, benvenuti, ben ritrovati all'ascolto di Pagina 3, la cultura nei giornali, nelle riviste, sul web. Oggi, mercoledì 6 gennaio, giorno della Befana, vogliamo iniziare con una riflessione che riguarda un po' tutti, cioè una riflessione che ha a che fare con questo problema interminabile che ha ciascuno di noi, la costruzione della propria identità, la definizione, diciamo, della propria posizione nel mondo rispetto agli altri, eccetera, eccetera. Insomma, un lungo e complesso processo che può essere guardato da tanti lati, naturalmente, che nel campo della scrittura, dell'arte, della creatività, poi conosce degli elementi di complicazione particolari. E allora vi suggeriamo di andare su un sito che di solito non usiamo qui a Pagina 3, perché è il sito della Società Psicanalitica Italiana, www.spyweb.it, dove troviamo una interessantissima intervista di Stefania Nicasi a Stefano Ferrari, psicanalista che si occupa appunto dei rapporti tra arte e psicologia, tra arte e psicanalisi. E la riflessione di Ferrari in questa chiacchierata con la Nicasi riguarda appunto questo tema dell'identità visto dal lato dell'arte, dell'autoritratto, l'autoritratto da intendersi sia come forma appunto pittorica, artistica, ma anche insomma come qualcosa che ha a che fare pure ad esempio col processo della scrittura. Qualsiasi scrittore, anche se racconta storie molto lontane da lui, in realtà sta facendo un duro lavoro sulla propria identità, la ricompone, la inventa, la disinventa, cerca di definirla. E insomma, il punto di partenza, come si pone il problema dell'autoritratto in relazione alla psicologia e alla psicanalisi, per Ferrari va messo così: è un problema complesso che può essere affrontato da diverse angolazioni, sia sul piano psicologico sia su quello storico e artistico. Le dinamiche che vi sono implicate non riguardano però soltanto gli artisti e coloro che vogliono fare il proprio ritratto, ma tutti noi, appunto questa era la cosa che volevo sottolineare, ma tutti noi nel momento in cui ci troviamo a fare i conti con il rapporto sempre abbastanza complicato e spesso tormentato con la nostra immagine nello specchio, nella fotografia o semplicemente nel momento in cui ci preoccupiamo di apparire in un certo modo e scegliamo una determinata faccia per presentarci al mondo. Si tratta concretamente di dare un'immagine, un volto alla nostra identità, e non è una cosa da poco, in quanto il senso di identità non coincide propriamente con un'immagine, ma in qualche modo deve essere comunque rappresentato anche attraverso di esse. Non è l'immagine appunto l'identità, ma l'immagine è una articolazione dell'identità, un tentativo di avvicinamento. È il problema, insiste Ferrari, sul quale mi sono a lungo soffermato, quello della formazione e della rappresentazione dell'immagine interna, che è qualcosa di più e di diverso rispetto allo schema corporeo o rispetto all'io o al sé corporeo. L'immagine interna assorbe e sintetizza modelli ideali sia interni che esterni, e quindi appunto per la costruzione di questa immagine l'autoritratto, che sia in prosa o che sia appunto fatto a matita o con i pennelli o con la china, beh insomma è qualcosa che è un modo per interrogarsi sul senso e i limiti della propria identità. Però, precisa Ferrari, occorre tenere presente che sotto un profilo psicologico l'autoritratto può essere considerato da due punti di vista diversi: come espressione creativa del bisogno dell'uomo di dare corpo e visibilità alla molteplicità delle sue maschere, che interpretano a loro volta il desiderio di cui parlava Freud di vivere una pluralità di vite, e in questo caso l'autoritratto costituisce un gioco creativo, oppure come dubbio e interrogazione costante sulla consistenza e il senso della propria identità. In questo caso l'autoritratto costituisce un documento psicologico importante, e quindi la prima forma, quella della pluralità di vite, della necessità di travestirsi, di mascherarsi, ha un esempio, un referente artistico per Ferrari in Duchamp. L'altro, l'autoritratto che cerca appunto di essere un tentativo di scavo e di messa a nudo della propria identità, ad altri referenti: Munch, Van Gogh, Schiele, Bacon. E naturalmente in tutto questo c'è un topos della letteratura e della psicanalisi che gioca un ruolo centrale, ovvero lo specchio, perché lo specchio, parlando di autoritratto, è imprescindibile sia nel senso che è un attrezzo fondamentale per fare tecnicamente il proprio ritratto, Sia, come sanno bene gli psicanalisti, la nostra identità in qualche misura si forma attraverso il rapporto con lo specchio. Conosciamo, dice Ferrari, la teoria di Lacan sullo stadio dello stadio dello specchio, ma nel caso dell'autoritratto sono soprattutto le osservazioni di Winnicott che diventano centrali, là dove si parla del volto materno come primo vero specchio in cui il bambino si vede e si riconosce. Il vero specchio dell'io è il volto dell'altro. E qui andiamo, diciamo, ancora su un altro terreno. Altra questione che si incrocia sempre in questo tentativo di definire l'identico, il sé, quello che siamo, in realtà è il contrario, cioè la tematica, la dinamica del doppio, una dinamica a cui la psicanalisi è sempre stata sensibile ed ha un ruolo nella psicologia dell'autoritratto, perché mentre noi facciamo il nostro autoritratto, appunto cerchiamo di definire perfettamente noi stessi, in realtà creiamo anche un doppio di noi stessi, e in questo, dice Ferrari, sta l'aspetto perturbante che il rapporto con la nostra immagine spesso assume. Ma la centralità del tema del doppio sta soprattutto nel fatto che il ritratto, come l'autoritratto, costituisce una modalità con cui l'uomo affronta la paura della morte, in particolare della propria morte. Se c'è un doppio che ci sopravvive, la morte ci fa meno paura. Altri elementi sono appunto alcuni di questi autoritratti famosi nella storia dell'arte, sono appunto, hanno un diretto riferimento alla morte. Non a caso ce ne sono quelli di Picasso nel 72, in cui la testa corrisponde già a un teschio, o Mapplethorpe che nel 78 si fa l'autoritratto quando è già malato terminalmente di AIDS. Quindi ci sta anche un lavoro di elaborazione del lutto, oppure diciamo di mettersi di fronte al lutto di se stessi, al lutto della propria morte, oppure della propria perdita di senso e di punti di riferimento dentro l'esistenza, il salto dei parametri, il salto delle mappe, delle bussole. E poi naturalmente un altro elemento, l'ultimo elemento che viene sottolineato in questa chiacchierata, ha a che fare con qualcosa che gli psicanalisti definiscono i meccanismi di difesa. E dice Ferrari, in un certo senso la situazione non è molto diversa da quella che ho descritto nel caso della scrittura come riparazione. Ferrari ha scritto un libro appunto sulla scrittura come lavoro di riparazione su se stessi. Anche qui abbiamo uno sdoppiamento tra l'io attivo che crea e l'io passivo che soffre. La scissione è sempre un'efficacissima strategia di difesa. L'artista attraverso l'autoritratto si libera di parti di sé inaccettate che vengono scisse e proiettate sulla tela, o aggiungerei sulla pagina. È già in questo processo di riparazione che però non è sufficiente. Bisogna infatti che gli elabori e reintroietti quelle parti di sé scisse con le quali comunque deve fare i conti, in quanto anch'esse gli appartengono. E quindi appunto questo elemento anche esorcistico che c'è nel lavoro dell'autoritratto, nella riparazione della scrittura, beh, insomma, è un esorcismo che è destinato inevitabilmente a fallire, perché appunto certe parti di noi stessi che noi cerchiamo di mettere in luce, di isolare, di oggettivizzare, poi insomma devono rientrare nel nostro processo interiore, bisogna continuare a farci conti. E poi, aggiunge Ferrari, sotto un profilo tecnico c'è di fatto una scissione, o meglio uno sdoppiamento, tra l'io oggetto e l'io soggetto. Infatti, per potersi rappresentare come oggetto, per diventare l'immagine del quadro, occorre che l'artista torni a guardare alla sua immagine come quella di un altro. E la capacità di autoritrarsi, questa è la conclusione della riflessione di Ferrari, la capacità di autoritarsi è dunque di per sé una garanzia di relativo equilibrio psichico, di cui tener conto nell'ipotesi di una psicoterapia che si serva anche dell'espressione artistica. Ecco, questi sono alcuni, diciamo, stimoli, alcuni suggerimenti che hanno a che fare, appunto, dicevo, con un problema che immagino riguardi tutto: la costruzione della propria immagine, la definizione del proprio essere se stessi, un'immagine interna appunto che non ha niente a che vedere con l'io canonico oppure con il sé corporeo. Ecco, queste sono le riflessioni con cui abbiamo iniziato la puntata di oggi di Pagina 3. Vi ricordo Autoritratto e Identità, è Stefania Nicasi che intervista Stefano Ferrari, la trovate sul sito della Società Psicoanalitica Italiana www.spyweb.it. E questa è Airport Sadness, la tristezza degli aeroporti, a Brad Meldau dall'album Place. A proposito appunto di pronunce, diciamo, quando uno fa un lavoro di psicanalisi su se stesso, se lo fa fare, insomma, diventa uno spione di se stesso, per cui chiedo scusa perché insomma i psicanalisti italiani sono italiani, quindi il sito è www.spi.it, non è spy, ma insomma vabbè, svariavo. E, Pietro del Soldà, siamo qua. Vittorio Giacopini, eccoci. Allora, stamattina... Ribaditi i nostri nomi adesso che sappiamo chi siamo, di cosa parliamo, a tutta la città ne parla. Allora, parliamo di fiducia, partendo dalle banche, perché hanno chiamato tre persone stamattina al filo diretto di prima pagina, riponendo al centro un tema che non è mai uscito dal dibattito dei nostri ascoltatori, ovvero dopo la vicenda delle obbligazioni subordinate delle quattro banche fallite, che rapporto di fiducia possiamo avere con chi ci vende titoli, chi gestisce i nostri soldi, diceva Mirella, io non posso far altro che fidarmi. Noi parliamo di questo e però cerchiamo di sviluppare quel che poi dice Luigi, un ascoltatore che chiamava da Legnano Sabbie d'Oro, che dice: io non sono un intellettuale, ho fatto le scuole serali, però mi pare di aver capito in questa vicenda che in realtà è al centro un concetto chiave per la civiltà tutta, la fiducia. La civiltà si basa sulla possibilità di fidarsi degli altri, non soltanto in banca. Generare fiducia, ha detto, è il più grave delitto contro la civiltà. E proviamo a declinare proprio, questa, diciamo, al fondamento del legame sociale. Sì, sì, esatto. Benissimo, e quindi questo è un tema appunto che è talmente generale, dai soldi fino alla fiducia, che riguarda anche questo. Che si erode verso partiti, media, i giornali, verso tutti, anche verso di noi, Vittorio, forse, sicuramente, ma quello diciamo anche noi stessi siamo dotati, come dire, di relativa scarsa autofiducia. 335-56-34296, questo grazie, è il numero con cui potete chiamare Pietro del Soldà e la redazione e partecipare a questa discussione. Io invece vi segnalo qualcosa che sta accadendo a Bologna ed è molto interessante. È un articolo di Repubblica che segnala appunto questo caso: via dai muri, graffiti in mostra, ma è così ancora street art? Che cosa sta succedendo a Bologna? Che alcuni graffitari, insomma alcuni artisti di strada, in particolare una, Alice al secolo, Alice Pasquini, è stata convocata da un tribunale cittadino bolognese e deve rispondere dell'accusa di imbrattamento dei muri della città. Fin qui saremmo nei canoni, diciamo, della situazione, perché appunto gli artisti di strada non sono artisti garantiti, non sono artisti, diciamo, che anzi sono dei sabotatori, eversori urbani, e quindi è anche normale che incontrino, diciamo, la giustizia. Ma al tempo stesso che cosa succede? Che gli stessi graffiti di Alice, e non soltanto i suoi, anche quelli di Blu, di Erika il Cane, graffiti che avevano costellato mura di edifici bolognesi, sono stati grattati via dalle pareti per essere riposizionati in vista di una mostra che si terrà a Bologna nei prossimi mesi. E allora Michele Smargiassi, in questo articolo su Repubblica, riflette proprio su questo paradosso: gli artisti di strada continuano a avere problemi con la giustizia, ma la loro arte viene, come dire, portata via dalle strade e canonizzata. I casi sono molti, uno è quello di Banksy. Sapete che Banksy, le sue opere vengono staccate dai muri e vengono vendute ad aste ormai milionarie, anche a prezzi, come dire, clamorosi. La strategia di Banksy è togliere subito la paternità a quelle sue opere quando vengono commercializzate, il che non toglie che le opere continuano a essere profondamente commercializzate. Un'altra strategia è quella forse del più grande graffitaro street artist che c'è adesso al mondo, Blu, un italiano, che proprio un anno fa intuì questa deriva, questa sorta di gentrification della street art, e cominciò a cancellare il suo gigantesco murale che appariva in Carvery Strasse a Berlino, un quartiere appunto popolare dove la sua opera era un segno, come dire, di rottura e di riqualificazione, un quartiere però che si sta gentrificando. Insomma, Blu ha deciso di giocare in anticipo, prima che arrivasse qualcuno a, come dire, imbalsamare le sue opere, le ha cancellate. C'è riuscito a Berlino, non c'è riuscito a Bologna, dove alcune sue opere sono state appunto prelevate per questa mostra. E insomma, la domanda di fondo è: ma l'arte di strada è ancora arte di strada? Se gli leviamo la strada, rimane soltanto arte e finisce nei musei? Ecco, questa è una questione su cui interrogarsi, che ci appassiona particolarmente, e vi segnalo oggi la cosa è appunto trattata da Michele Smargiassi sulle pagine di Repubblica. Andiamo avanti con una veloce panoramica delle pagine culturali dei giornali e partire dall'Unità. Addio a Paul Bley, pianista del Free Jazz, ha suonato con Charlie Parker, con Ornette Coleman, ha attraversato la storia del jazz ed è morto appunto il 3 gennaio scorso. A proposito di jazz, vi segnalo che oggi a Wiki Radio alle ore 14 invece viene ricordato un altro grande del jazz, Dizzy Gillespie, ne parla Helmut Failoni. Gillespie morì il 6 gennaio del 93 a New York. Ancora sull'Unità si parla di Bologna, si parla di arte, però di fumetto, Bombi e Magnus ancora uniti nel nome del fumetto, mentre sul Fatto Quotidiano viene segnalato l'ultimo libro di Angelo Ferracuti, che si chiama, citando una canzone di Piero Ciampi, Andare, camminare, lavorare, quelli che vanno, camminano e lavorano sono i postini. Lui racconta l'Italia vista dai postini. Da segnalare da Repubblica un articolo che riguarda la Cina. In Cina gli uomini sono macisti e quindi devono essere corretti, rieducati, come tipica traduzione, tipica tradizione cinese, quindi viene stata istituita una scuola per papà e mariti, per imparare a fare i papà e i mariti decentemente. Poi andiamo avanti con Avvenire, dove si parla tra vita e società, il cinema anarchico di Goffredo Fofi, perché Goffredo Fofi ha appena pubblicato da Eleutera un bel libro su cinema e anarchia, il cinema del no. E poi ancora su Avvenire si parla degli 80 anni di Dan Peterson, il coach americano che ha portato e reso grande il basket in Italia, è stato il grande allenatore degli anni 70 e 80 e adesso a 80 anni riflette sul ruolo del suo mestiere, sul ruolo della sua missione di allenatore. Molti giornali danno, ne avete sentito parlare anche a prima pagina, la notizia di questa candidatura di Guareschi al Nobel per la letteratura nel 65. Vi segnalo un articolo dalle prime pagine del Corriere della Sera, dalle pagine di Società ed Economia, ma è interessante perché siamo arrivati ai livelli di inflazione del 1959, quindi si fa un paragone tra la nostra epoca e quella. Il 59 era l'anno in cui Federico Fellini stava girando La dolce vita. Vi segnalo anche un articolo da Le Monde che ha deciso di occuparsi di Napoli e del rapporto appunto tra i rifiuti tossici e le morti per cancro. Questo lo trovate anche sul sito online di Le Monde. E per finire, dalla rivista Studio, un ritratto di Allen Lane, è l'uomo che ha inventato il marchio del pinguino, cioè della Penguin, ed è qua raccontato come appunto nel cercare di rilanciare la sua vecchia casa editrice abbia coniato questo marchio che avrebbe cambiato la storia dell'editoria, tra l'altro pubblicando l'impubblicabile Ulisse di Joyce. E un'altra questione di cui si sta parlando molto in questi giorni nelle cronache è quello che, diciamo, sinteticamente si può chiamare il caso Cucchi o il caso Ilaria Cucchi, insomma il dolore per l'omicidio, il massacro del fratello ha suscitato anche delle reazioni scomposte, politiche, anche di editorialisti, eccetera. E, insomma, su tutti questi temi cerca di fare una riflessione più ad ampio raggio e più in profondità Luigi Manconi sulle pagine di Pagina 99 che trovate in edicola per tutta la settimana. Chiedere giustizia dopo il lutto, un'impresa da donne. Sono queste le battaglie di cui parla Manconi in questo articolo, figlie, madri, sorelle, parenti delle vittime che hanno dovuto rinunciare alla dimensione privata del dolore, perché è che appunto se sono dette cose indecenti sulla Ilaria Cucchi sono proprio il fatto che lei avrebbe, come dire, fatto un uso esibizionistico dell'immagine del fratello massacrato, dell'immagine del carabiniere massacratore. E per invece Manconi dentro questa operazione in realtà c'è un'ulteriore ferita che però ci si autoimpone per motivi di giustizia. rinunciare alla elaborazione puramente privata e interiore del dolore e farne una questione pubblica di battaglia sociale. Abbiamo dovuto rinunciare al dolore. Queste le parole pronunciate da Ilaria Cucchi, sorella di Stefano, nel corso di una trasmissione radiofonica condotta da Ilaria Sotis. È probabile, scrive Manconi, che molti non abbiano inteso il senso di un'affermazione in apparenza tanto scandalosa e in realtà così profonda e così vera. La ragione è semplice. Siamo abituati tutti a vivere e a pensare il dolore come qualcosa di intimo, di rigorosamente riservato e di tragicamente esclusivo, al punto che quando un dolore si fa pubblico è come se ne risultasse compromesso, se non in qualche modo contaminato. In altre parole, sentiamo che il dolore più autentico è quello raccolto nella sfera più riposta di ciascuno. Ed è proprio così, almeno nella grande maggioranza dei casi. Ma quella rinuncia al dolore di cui ha detto Ilaria Cucchi significa ben vedere l'esatto contrario di ciò che nell'immediato viene fatto di pensare. Qui rinuncia significa sottrazione al sentimento di consolazione che una sofferenza interamente vissuta in ambito familiare e domestico, tutta circoscritta alle relazioni più intime, può consentire o almeno permettere. Questa dimensione, nel caso della famiglia Cucchi e di molte altre, non viene cancellata, ma viene come sospesa e incrinata da una dimensione diversa, tutta esterna, che sembra negare la prima o comunque denudarla, mentre la espone e la deforma e la proietta nella sfera pubblica. Sta qui la radice di ciò che i nemici giurati e gli ipocriti per bene definiscono sprezzantemente esibizionismo del dolore. E non è esibizionismo, dice Manconi, è richiesta di giustizia, è domanda sociale. Infatti, rinunciare a vivere internamente è una rinuncia a vivere il dolore internamente in nome di un'idea pubblica di giustizia. E quanto rende una sofferenza privata la necessaria premessa di una virtù civile, di un sentimento collettivo. Ecco, questa mi sembra la lettura più lucida che è stata fatta delle cose che si sono dette in questi giorni, anche appunto molto rozzamente sul caso Cucchi, ma l'articolo di Manconi lo ricorda esplicitamente nella sua seconda parte, che vi invito a leggere su pagina 99. Beh, non è solo il caso Cucchi, ci sono moltissime altre esempi. Daria Bonfietti, la presidente dell'Associazione dei Familiari di Ustica, Patrizia Moretti Aldrovandi, la mamma e la sorella di Riccardo Rasman, e Caterina Mastrogiovanni, una lunga lista quasi tutta di donne. E infatti, appunto, questo è un po' il segreto dell'articolo di Manconi, chiedere giustizia dopo il lutto è un'impresa da donne. Questa era Airport Sadness, la tristezza degli aeroporti, la tristezza dell'aeroporto, Brad Meldau dall'album Place, un album del 2000. Noi concludiamo la puntata di oggi segnalandovi una lunga intervista di Pier Giorgio Odifreddi a Richard Roberts, che è vincitore della medicina, del Nobel per la medicina, ed è un paladino degli OGM. In questa intervista in realtà ci sono due problemi. Uno è la titolazione che da Repubblica, il metodo scientifico, farsi capire dalle nonne, quindi apparentemente è una intervista sul metodo. Però, dato che Roberts è anche appunto noto come essere un paladino degli OGM, degli organismi geneticamente modificati, in realtà la maggior parte dell'intervista è dedicata a quello aspetto, cioè perché sugli OGM si sta facendo una grande confusione, almeno secondo Rogers. E quindi di questo fondamentalmente parla l'intervista. Lei sostiene, gli dicevo di Freddi, che la propaganda anti-OGM è orchestrata dagli ambientalisti, ma quali sarebbero le loro motivazioni, e per Roberts le motivazioni sono molto semplicemente politica ed economia, cioè il potere e i soldi. Greenpeace, ad esempio, è un'organizzazione non governativa che riceve finanziamenti enormi. Infatti c'è molta gente che giustamente si preoccupa dell'ambiente, ogni volta che trova una causa che sembra essere favorevole all'ambiente la sposa. Perché concentrarsi allora sugli OGM? Perché sulla partita, la partita sugli organismi geneticamente modificati, anche a che fare con i rapporti complicati su questo fronte tra Europa e Stati Uniti. Erano una causa perfetta gli OGM. Gli europei non volevano che la Monsanto diventasse il gestore alimentare dell'Europa, ma sarebbe stato difficile bloccarla in maniera convenzionale. Certo, non si poteva boicottare direttamente qualunque suo prodotto, perché anche la maggior parte delle sementi convenzionali arriva dalla Monsanto. Insomma, che cosa sta succedendo secondo Roberts? Che c'è una mancanza, un difetto di comunicazione scientifica, per cui alcune battaglie più ideologiche degli ambientalisti passano, mentre invece le ragionate posizioni degli scienziati non ce la farebbero. E qua si torna al punto del metodo, perché dice Roberts, ammette Roberts, è anche colpa nostra. Noi scienziati ne siamo in parte responsabili, perché non abbiamo voglia di avere a che fare con i giornalisti e con il pubblico. E qui arriviamo alla nonna. Noi preferiamo parlare tra di noi scienziati, dice Roberts, ma io dico sempre ai miei studenti che se vogliono lavorare con me devono passare il test della nonna, devono essere in grado, cioè, di spiegare alla propria nonna cosa fanno. Se riescono a farglielo capire, bene, se no devono trovare un altro modo di dirglielo, perché è importante riuscire a comunicare agli altri cosa si fa. Ecco, queste sono alcune delle riflessioni che, partendo dagli OGM e arrivando alla nonna, hanno a che fare con il metodo scientifico e con la comunicazione scientifica. Con questo concludiamo le letture degli articoli di Pagina 3, ma la puntata non è ancora conclusa, perché non potrebbe chiudersi senza la voce di Valentina. Buongiorno Vittorio. Diciamo che iniziamo in maniera straordinaria con Radu Lupu, un monumento del pianoforte vivente, e il suo cofanetto di 28 CD. Ripercorriamo la sua carriera e il suo legame con l'etichetta Decca. Bene, questo saranno appunto gli ascolti con Valentina Losurdo, Primo Movimento. Vittorio Giacopini vi dà appuntamento a domani mattina alle 9 con Pagina 3. Grazie a Simone D'Arrigo in console tecnica, a Benedetta Caldarulo in redazione, a Gianfranco Rossi, curatore del programma, e a Piero Pugliese, il nostro regista.